Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, Oscar, 8:21 minuti. Il microfono. L'avevo spostato. Ma perché penso... serve il microfono? In no, non serve come ovvio. Penso che sia la trasmissione delle onde magnetiche a distanza. E invece... Col pensiero ormai i nostri ascoltatori ci capiscono. Noi siamo tutti facciamo come mamma Ebe, mesmerismo a distanza. No, mamma mia. Vabbè. Mamma Ebe. Però è ammirevole per certi versi. Insiste con una... No, la tenacia con cui insiste... Sarà una compulsiva ossessiva, io non lo so, non do giudizi. Però mi colpisce sempre questi fenomeni... A me colpiscono le persone che si rivolgono, capito, a queste persone. Che vuol dire che la lingua batte dove il dente vuole. Cioè c'è una proclività nell'animo umano all'impossibile, come devo dire? Credere all'impossibile. Allora... Adesso uno dice, questo ateo l'ha detto apposta perché così voleva dire, a proposito di impossibile i santi, no, non è questo, però, perché oggi tra l'altro ci sono dei santi che hanno un grande significato politico, oggi per esempio è il santo dei politici, era Cossiga a ricordarsene, gli altri non hanno pensiero per i santi, però è il santo dei politici per un motivo, perché oltre a San Paolino di Nola, che è il santo che si più importante italiano, per così dire, per l'Italia, che si ricorda oggi, ma in realtà per la cristianità oggi ci sono due vittime di chi? Di Enrico VIII, perché non si piegarono al fatto che lui ripudiava la moglie di Caterina d'Aragona per risposarsi, la seconda poi delle tante mogli che decapitò, questi due signori di oggi, che in realtà... erano uno l'arcivescovo di Richmond, John Fisher, e poi il suo gran cancelliere, cioè Tommaso Moro, di fronte al fatto che il re si separava e con l'atto di supremazia diceva e non me ne frega niente che il Papa non mi autorizza a separarmi dalla Spagna, io in fondo la nuova chiesa ne divento capo, l'atto di supremazia, si fecero decapitare tutti e due. Quindi perché poi diventano santi? Diventano santi molto tardi, nel senso che diventano santi nel Novecento. E diventano santi nel Novecento con gli anni 30 del Novecento, quando la Chiesa si rivolge alla Gran Bretagna, tifando non proprio per la Gran Bretagna, nei terribili anni 30 europei, come dire c'è qualcuno che ha saputo dire no. Ecco, allora, oggi è un giorno in cui questi santi, bisogna riflettere, servono politici capaci di dire no? Sì, servono, questa è la mia idea. Sai che su Tommaso Moro c'è una straordinaria leggenda o verità alla storia delle dottrine politiche e scienze politiche, dove c'è il professor Moro, e quando di fronte allo studente che non sapeva chi avesse scritto l'utopia, e il professore disperato gli disse si ispiri, e lo studente disse l'ha scritto lei. Ecco, non oso immaginare l'esito dello studente di quell'esame. Sì. Comunque, lasciami dire che al di là di questo, io trovo un po', adesso non voglio andare sempre controcorrente, ma non è un po' troppa enfasi tutta sta cosa sugli esami di maturità che gli organi di formazione mettono, scusa? Perché ogni anno presentiamo questa esperienza come se fosse la partenza dei treni verso le trincee? No, allora è uno snodo, è il primo vero grande esame per ragazze e ragazzi. Forse ha perso un po' della poesia dei nostri tempi. No, adesso uno snodo, passano tutti. Sì, lo passano un po' tutti. Quindi è un po' tutto italiano. Cioè, lo vedi un po' come un rito... Non lo so, io a me interessa il fatto che, non so se sia nostalgia dei tanti colleghi che scrivono i temi del loro esame, cioè, di maturità, i giornalisti dei giornali che scrivono loro i temi della maturità, mi spieghi il senso? Mi sfugge, non lo so. È un po' come dire Donnarumma vale 100 milioni, poi ieri sera fa sta cazzo di pazzesca. Una cosa ridicola, 100 milioni non gliele perdoneranno più, non gli perdoneranno infatti più. Si è creato una certa tempesta, va bene. Comunque caro Oscar, oggi abbiamo dei temi importanti da affrontare, perché l'ospite è importante, è un ministro, è il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che è con noi e che ringraziamo e salutiamo. Ministro, grazie di aver accettato l'invito e grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Allora, oggi sul Sole 24 Ore si racconta di questo provvedimento sulla concorrenza che incespica molto. Lei ha chiesto il ritiro degli ultimi emendamenti che di fatto bloccano questo provvedimento, emendamenti peraltro di esponenti della maggioranza. Ecco, ministro, come mai, che lettura dà di questi emendamenti e del fatto che non si riesce ad arrivare allo sblocco di questo provvedimento? Ma la verità è che confesso che non do letture, nel senso che non me lo riesco a spiegare, anche perché ricordo che questa legge, che doveva essere annuale, è stata varata dal governo Renzi, non è una mia legge, 851 giorni fa, ormai li sto contando più o meno come i carcerati. No? Carcerati. E quando io sono diventato ministro, siccome oggettivamente una legge importante, ma che poteva anche avere delle cose in più, potevo scegliere due strade, quella di ritirarla o quella di portarla avanti. Ho scelto quella di portarla avanti perché per me è molto importante che l'Italia dia il segnale che un obiettivo, cioè la legge annuale, non dico che la porta a casa in un anno, ma insomma in tre mi pare ragionevole. E allora lì è iniziato un calvario lunghissimo, perché poi questo riflette il fatto che in Italia non si sa perché la concorrenza è considerata una cosa che può danneggiare chi la porta avanti dal punto di vista politico. Io credo che sia esattamente l'opposto, perché dove non c'è la concorrenza ci sono le rendite. Siamo arrivati con grande fatica, abbiamo provato al Senato, è andata alla Camera, ci sono quattro emendamenti del PD che sono sostanzialmente chiarificatori e non sostanziali, dove io ho dato l'impegno del governo a risolvere queste quattro questioni in vario modo, sia in provvedimenti successivi che faremo, e non solo sulla concorrenza, dove possono essere fatte queste piccole modifiche, sia con altri strumenti, per esempio sul tema dell'energia sicuramente è previsto un decreto ministeriale dove il tema che viene affrontato si può risolvere, e ho chiesto che si ritirino gli emendamenti. Io spero che si faccia in maniera che si approvi una volta per tutte in aula la versione al Senato, e che non si ritorni un'altra volta al Senato in quarta lettura, perché sarebbe una pessima immagine, ma sarebbe anche, daremmo anche l'idea che veramente non riteniamo la concorrenza, come invece io ritengo, un grande elemento anche di equità sociale. Sì. Allora io spero proprio che il PD non si trasformi dal partito che voleva rottamare le rendite e le caste al partito che rottama invece la concorrenza, perché sarebbe un'immagine pessima, credo. Anche perché oggi, nella lettura che dà il Sole 24 Ore di questi emendamenti definiti pretestuosi, ministro, si parla addirittura, nell'articolo di Carmine Fotina e Marco Mobili, di un'area renziana che vorrebbe, così colpendo il provvedimento, indebolire lei come ministro. Questa gliela diamo come lettura sul Sole. Ma sarebbe deprimente e non ci credo. Tra l'altro sarebbe anche non particolarmente intelligente, perché il provvedimento l'ha fatto Renzi, quindi insomma. Vedrei le ragioni, a parte il fatto che al di là di quello che scrivono sui giornali, io con Renzi comunico regolarmente, ci siamo visti lunedì, quindi insomma ho un buon rapporto, poi ogni tanto abbiamo visioni diverse e ce lo diciamo in modo franco. No, io non credo che sia questo, però d'altro canto non so spiegarmi cos'è, oggettivamente non lo so, perché ripeto, si possono risolvere queste quattro cose che sono veramente minori in modi differenti. Allora io ieri mi sono permesso di dirlo, ho visto che oggi su qualche giornale si riporta la risposta piccata del PD, che dice le leggi le fa il Parlamento, non le fanno i ministri. Verissimo, massimo rispetto per il Parlamento, non mi permetto alcun commento, solo gli chiedo appunto, siccome il Parlamento fa le leggi, facessero la legge. Senta, qualche domanda su alcune delle partite che sono sul suo tavolo. Sì. Perché in questi giorni andiamo a un punto di fondo, perché chi ci ascolta ovviamente non conosce i dettagli, si perde nelle cose tecniche, però improvvisamente quello che appare a chi legge i giornali e i giornalisti è Telecom Italia, TIM e il governo iniziano a scambiarsi colpi d'artiglieria. Perché? Ma perché Telecom Italia ha detto, nelle parti d'Italia in cui c'è meno rete, noi ci abbiamo la nostra, felici che il bando del governo sia attribuito a Open Fiber, cioè all'Enel e alla CDP, però noi la nostra rete non è che la facciamo decadere, investiremo anche noi. E sembra una cosa di elementare buonsenso, no? E invece scoppiano scambi d'artiglieria, il governo dice a Telecom: ma come? Voi non ce l'avete detto? Bisognerà esaminare le conseguenze, avete violato i contratti, a questo punto l'Europa forse invalida le gare. Cosa sta succedendo? Ma guardi, glielo spiego, è un po' tecnico, però credo che sia importante capirlo perché è un tema fondamentale. Quando il governo fa partire l'operazione sulla banda ultralarga nelle aree cosiddette bianche, cioè quelle a fallimento di mercato, sì, la prima cosa che fa è aprire una consultazione per chiedere agli operatori se loro hanno intenzione di investire in quelle aree. È previsto dalla norma europea. Se gli operatori avessero detto che avevano intenzione di investire in quelle aree, noi non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto, cioè l'idea di costruire una rete pubblica perché non c'era una rete privata, diciamo, a ultralarga. Cosa succede? Che quella dichiarazione, cioè la dichiarazione che non si vuole investire, è una dichiarazione legalmente vincolante, ma è una dichiarazione importante perché ovviamente tutta poi la dimensionamento del piano e anche la concessione che viene data si basa su un equilibrio economico, no? Sull'equilibrio economico che è determinato dal fatto che gli operatori privati hanno detto formalmente lì non investiamo. Cosa succede? Che Telecom partecipa al primo bando, perde, si prequalifica nel secondo bando, dopodiché fa arrivare una lettera in cui dice: guardate, noi abbiamo cambiato idea, vorremmo investire su circa il 10% delle aree di questo secondo bando. 10 però, no? Cioè, il 10% se non è una roba che inficia, non lo so. No, un po' lo inficia perché se il 10% per esempio sono le aree più remunerative, cioè meno bianche, diciamo, delle aree bianche. I conti della parte pubblica che poi ha vinto la gara non tornano. Allora io quello che dico in questi casi, bisogna rispettare le regole. Allora io ho fatto una dichiarazione in cui ho detto: noi siamo solo felici se Telecom investe, ovviamente il mio lavoro è far sì che le aziende investano di più, e siamo molto felici se Telecom investe al posto del pubblico, perché questo vuol dire che noi non ci mettiamo dei soldi. Tant'è che il terzo bando ha detto: fermi tutti, apriamo una consultazione, riverifichiamo sulle aree del terzo bando, ci vogliono investire. Quello che però non si può fare, perché noi dobbiamo fare paese serio, no? E questo vale sia quando facciamo la gara sull'Ilva, sia quando facciamo la gara sulla banda larga, è cambiare le regole in corsa, perché questa è una cosa che un paese serio non fa. Quindi io chiamerò Telecom, rivedremo insieme quello che è stato il processo, loro dicono: noi ve l'abbiamo comunicato prima, magari non l'abbiamo formalizzato, lo vedremo in maniera trasparente e chiara. Se Telecom ha il diritto di investire, deve poter investire senza nessun ostacolo, ma anzi con tutti gli incoraggiamenti. Se viceversa c'è un equilibrio della concessione che viene messo in difficoltà rispetto a un impegno legale preso da Telecom, sono sicuro che Telecom lo riconoscerà. Quindi nel merito, senza polemiche, non ci sono polemiche verso la... ho capito, va bene. Un'altra questione che riguarda un po' tutti, perché poi la gente qui continua, come a tutti i giornali, a scrivere: ma noi siamo sicuri, continuiamo a prenotare i biglietti di Alitalia? Sì, questo Alitalia, è il punto di fondo, perché ovviamente siamo d'estate. Momento altro anche di picco poi della remuneratività per le compagnie aeree. Allora, domanda fuori dai denti. L'impressione è che i commissari si siano dati un mandato molto lungo, molto lungo. Dicono che hanno più soldi adesso dello stesso prestito ponte di 600 milioni datogli da voi, cioè dal governo. La domanda però che facciamo è agli operatori che ci chiedono: ma perché non siamo in grado di capire meglio i conti? Perché non depositano il bilancio 2016? Quali sono le basi su cui credere davvero ai commissari che siano in una situazione di cassa così liquida? Non è che poi ci troviamo da un giorno all'altro che noi ci abbiamo creduto e i biglietti non valgono niente? Perché il bilancio non è depositato, ministro? No, loro lo stanno facendo e peraltro stanno anche facendo rivedere i bilanci degli anni passati con varie riclassificazioni, tra l'altro fa parte del loro dovere, come fa parte del loro dovere a seguito di quello eventualmente promuovere azioni di responsabilità. Chiaro è che loro sono arrivati da relativamente poco e quello che hanno fatto per adesso è utilizzare l'amministrazione straordinaria, che è una sorta di chapter 11, per ripulire in qualche modo anche alcuni contratti che erano particolarmente svantaggiosi, e per questo hanno della cassa, non perché abbiano un programma di chissà quanto lungo periodo. Loro quello che devono fare è quello che è previsto nell'amministrazione straordinaria, cioè raccogliere le offerte che sono arrivate in un primo round, ovviamente mettere nella condizione migliore possibile dal punto di vista finanziario l'azienda, in maniera che si spendano meno soldi pubblici possibili, che per me rimane l'obiettivo prioritario, e dopodiché cedere l'azienda. Questo è il loro obiettivo, e la situazione di cassa l'hanno rappresentata peraltro in Parlamento in modo formale, i bilanci rivisti, e come giustamente devono fare perché loro subentrano per fare questa verifica, verranno depositati e ovviamente discussi, quello che dicono i commissari, e io non ho motivo di non crederlo perché l'hanno detto formalmente, sono insomma legalmente responsabili, che la stagione estiva, ma anche in là dalla stagione estiva, è totalmente coperta. Ma lei, ministro Calenda, sulla cessione cosa auspicherebbe o cosa vede? Perché si è parlato di spezzatino, partner stranieri, di intervento dello Stato, anche una in quota, come chiede il segretario Renzi. Lei cosa dice? No, la mia idea, guardi, è questa. Io penso, come ho detto dall'inizio, che noi abbiamo un ordine di priorità, poi bisogna vedere nella vita se si riescono a ottenere tutte. La prima priorità per me è che si spendano meno soldi pubblici possibile e contemporaneamente i cittadini abbiano le rotte e i servizi, perché questa è la cosa che è importante, decisiva. Se questo si può fare mantenendo l'azienda tutta insieme, io sono ovviamente molto contento. Se lo si può fare cedendo l'azienda a un operatore internazionale, cosa che io credo sia la strada giusta, perché ovviamente all'Italia vivrebbe meglio avendo un operatore internazionale, bene, ma direi che la prospettiva è questa, cioè non, ripeto, noi non possiamo più mettere soldi pubblici in Alitalia, questa è la mia appunto di partenza. Anche perché temo che potreste metterne troppi anche nelle due venete, ma questo lo vediamo, perché poi non è partita in mano a lei. No. Esatto. Ministro, io ho le mie che certo. Non so. Infatti lei ama parlare delle tante cose di lavoro che ha da fare, però ministro, qua la nominano tutti, e Prodi la vista e dice un incontro abbondante. Più che abbondante. Matteo Richetti sul Giorno oggi dice vorrei una sinistra con Calenda. Berlusconi ha detto vedrò Calenda, peraltro non si capisce, smentito dal ministero, ci può dire se vedrà Berlusconi. Cioè tutti la tirano un po' per la giacca per la prossima avventura sai politica. Sai com'è Roma? Guardi, a Roma c'è una battuta sulla sora Camilla che tutte no, però guardi, io ci tengo molto perché francamente non vorrei che ci fossero dubbi su questo. Come l'ho detto sul mio impegno politico, quello che ho detto l'ho sempre detto coerentemente. Io mi occupo del mio lavoro adesso e basta, faccio il mio lavoro, non ho piani politici, progetti politici di nessun genere. Dopodiché ovviamente interloquisco con molta gente, con Prodi io mi vedo regolarmente da tanto tempo, peraltro da quando facevo la parte internazionale qui al Ministero, è una diciamo anche delle poche persone in Italia che gira il mondo ed è sempre una conversazione interessante, così come non ho assolutamente in agenda un incontro con Berlusconi. Tra l'altro faccio presente che a conta di tutte le ricostruzioni diciamo più o meno suggerite dei giornali sul fatto che io avevo incontrato Berlusconi, Berlusconi ha confermato quello che ho sempre detto, io non l'ho mai incontrato e non ho in programma una in agenda di incontrarlo, ma sono felicissimo di incontrarlo perché certo. È un grande imprenditore, una persona molto interessante, ma ci mancherebbe altro. Dopodiché ripeto, il mio lavoro è quello di finire le tante cose che ho qui al Ministero, sì. Sperando di avere il tempo di farlo e lì mi fermo. Dopodiché, se posso dare una battuta, l'altro giorno c'era un'intervista di Verdini molto divertente sul Corriere della Sera, io non lo conosco Verdini, però su di me diceva una cosa che secondo me è una delle poche cose in cui sono d'accordo con Verdini, dice non prenderebbe il voto neanche della madre che vota a sinistra, il che è vero, sia che mia madre vota a sinistra sia che è una cosa diversa, secondo me c'è una cosa molto diversa tra fare il proprio lavoro di, magari dignitosamente, avere un buon rapporto con le imprese eccetera e essere e prendere voti, è un lavoro diverso. Però la inorgoglirà il fatto che tutti guardano a lei come questa personalità politica. Questa dichiarazione è una delle più rilevanti di questa intervista, perché dimostra che Calenda davvero non è un politico. Il politico anche di ultimo livello è convinto che lui è bravo a risolvere i problemi, esiste, a prendere i voti eccetera. Ma guardatevi le classifiche dei ministri, sono praticamente sconosciuto, in televisione non ci vado mai, cioè io penso, ripeto, faccio il mio lavoro, cerco di farlo decorosamente e dignitosamente, poi è chiaro che faccio il mio lavoro politico e quindi dico come la penso sul mondo, come la penso sull'Italia, sull'economia italiana, cioè non è che faccio il mio lavoro, io non faccio il direttore generale qua, faccio il ministro e quindi dico le cose come le penso e faccio le cose nell'ambito di una visione d'insieme, giusta o sbagliata, che è politica, ma questo è un discorso molto diverso dalla però evidentemente ne fa il punto tale che avevano alimentato gli stessi PD la polemica contro i tecnici, lei esatto, è Padova, esatto. Quindi non è proprio un influente, cioè sì, è un problema per così dire della frustrazione dei politici, tutto è iniziato che vanno sui giornali e poi non riescono a toccare i problemi. Tutto è iniziato quando lei fece un'intervista dicendo che non è il momento di andare a esatto. votare, i mercati internazionali. No, ma io dico semplicemente che abbiamo un sacco di cose da fare, facciamole. Non mi pare che qui ci sia un quadro politico straordinariamente chiaro, ci sono delle fragilità che nel paese rimangono e sono profonde. Cerchiamo di lavorare per mettere a posto, poi scade fra poco la legislatura e poi si faranno le elezioni ovviamente. Io quello che ho dell'Italia mi lascia un po', non dell'Italia, ma diciamo di questa esperienza politica, è che se noi continuiamo a parlare di legge elettorale, di data delle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera, io ho l'impressione che il distacco aumenti, non è che diminuisca. Sì. Allora, io dico, c'è una scadenza di legislatura, per adesso lavoriamo e facciamo le nostre cose. Questo è un governo, peraltro, diciamo che è molto espressione del PD, quindi immagino che ci sia tutto l'interesse del PD di continuarlo a sostenere in maniera forte. Appunto, facciamo la concorrenza, abbiamo fatto il processo penale, facciamo il diritto fallimentare che è fondamentale. Ci sono tantissime cose che dobbiamo fare. Intanto, Ministro, noi la ringraziamo per essere stato con io noi. La prego in ginocchio, spenda meno che può. Dall'Italia alle banche. Non mettete miliardi. Ma non è possibile dare a Intesa tutti gli asset positivi e lo Stato non si prende le negative. Non mi tirerà a parlare di cose. No, non voglio. Ma io la imploro come contribuente, non come giornalista. Ma si figuri, ma questo, guardi, io è la prima cosa che cerco di fare qui dentro. Ho cancellato, come voi sapete, ho trovato circa 10 miliardi di fondi non spesi, ne ho cancellati la metà, conto di arrivare a dicembre ad averne cancellati 7 miliardi e mezzo. Bene, questa bene. È la spending review, secondo me si fa così, cioè non con i tagli lineari, ma andando dentro come si fa nelle aziende, rivedendo i processi e cancellando gli strumenti inutili. Questa è la cosa più importante che questo paese può fare, solo che se la si fa stando, diciamo, col sedere sulla sedia dalla mattina alla sera, soprattutto non fa notizia, perché non gliene importa niente a nessuno. Vabbè, però intanto fatela, grazie. Io lo faccio, è l'unica la cosa che so fare meglio, le altre mi riescono molto meno bene, tipo la politica. Grazie al Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per essere stato con noi. Allora, noi diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Non so se volete commentare, ovviamente sono state toccate anche questioni magari più profonde. Beh, anche però più... invitiamole anche se qualcuno ha visto Dudu e Berlusconi ieri sera, che tu hai colto il povero Dudu ieri soffriva, si muoveva come un'anguilla. Poveretto, io ero solidale. No, allora qualcuno, non lo dirò mai, il mio assistente, il nostro assistente Lorenzo Espoli, ha detto: ma guarda, sembra che lo prenda in mano per la prima volta in vita sua, da tanto Dudu vuole scappare. Io invece io ho l'impressione che tutte le volte che lo prendo in mano è così, cioè che Dudu non ha cambiato idea, dicendo giù le zampe, Dudu a Berlusconi. Io invece voglio pensare che magari messo in un contesto televisivo, uno studio, le riflettori, luci, le luci, tutte queste persone. E soprattutto la reazione a Vespa, insomma. Dudu ha visto la Vespa. Senti Berlusconi, Che c'è? Perché sanno farsi capire senza proferire parola. Gli animali. Perché sanno darci un amore vero e profondo. Perché se noi impareremo ad amarli come meritano, ci sentiremo più vicini a Dio. La traduzione è: amo la gente che mi ama e sta muta. Questo, scusate se ve lo dico, ma abbaia, era chiaro, questo messaggio era molto chiaro. Comunque 800 24 00 24, il ritorno di Berlusconi tra poco. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience, scoprila su inaz.it. Mattino. Sono le 8:47 minuti, Oscar, eccoci qua. Allora, eccoci nel frattempo qua. È successo di tutto. È sul tuo tavolo, si è abbattuto. La nostra Chiara Compagnone ha portato dei pasticcini e la ringraziamo per questo. Ma ne ho mangiato uno, mi stavo strozzando. Esatto. Allora volevo bere l'acqua, l'ho rovesciata tutta qua sul bancale. È così. Insomma, ma perché, Chiara, la prossima volta non portare cose con aggiunte immediate, con queste polverine che aggiungete. Questo è pure. Io l'avevo detto, io mi sono polverine. Ha immediatamente iniziato a muovere le mani, il bicchiere partito. Ma che sei matto? No. Nessuna polverina. No, magica. Era lo zucchero. Che poi ho detto: è pericoloso mangiare queste cose in onda, ecco. Perché non ho finito la detto, frase. E infatti io non le prendo. Lo stavi dicendo e ci stavi rimanendo. Lo so. Ma però io lascio che torni su questo argomento. Magari chiama anche qualcuno. Ma vedete, mai visto che Berlusconi dice ai suoi? No, c'è un pezzo, il Messaggero, che dice ai suoi: nessun caso personale su Renzi e Boschi. Sui padri. Tu non trovi straordinario uno massacrato per 25 anni che ha i leader del PD, no? Ma ci tiene poi a dirlo pubblicamente. Ma io l'amore, come vedete, io vi restituisco pace e amore, che è come dire: sono feriti a morte, sono censurabilissimi, ma ci servono vivi, cari amici. Ecco, io trovo in questo Berlusconi. C'è da dire che poi Berlusconi, la cosa forse più forte che ha detto è sull'Islam. Capito. No? Se fosse stato premier probabilmente sarebbe successo qualcosa. Beh, ha detto: ci sono degli islamici che vogliono la pace, ma altri che si ispirano a Maometto, che era un combattente, un guerriero, uno che faceva schiavi, uno che... Cioè è stato duro, è stato duro. perché dall'altra parte alcuni sono suscettibili quando si toccano questi argomenti. È un po' suscettibile, abbiamo visto anche ieri quando abbiamo avuto Facci. Però ha detto che lui, Gigi Donnarumma, lo convincerebbe. Sì, l'avrebbe tenuto come tenne Kakà, non lo venderò mai, tre giorni prima delle elezioni prima e tre giorni elezioni. Dopo. Ecco, questo ce lo ricordiamo. Anche non bisogna essere tifosi del Milan per ricordarselo. Kakà rimarrà al Milan. Poi si è votato dopo due giorni ed è andato. Ah, quindi tu dici che io l'avevo preso invece per un grande accesso di sentimento verso il giovane. Ma sono sicuro che, ma non lo so, magari l'avrebbe tenuto, ma magari poi rimane Donnarumma, chi lo sa. Comunque ci sono gli ascoltatori, c'è Fabio da Arezzo, caro Oscar, eccoci qua. Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Niente, volevo fare una domanda perché ho sentito Calenda, l'intervento di Calenda, che mi sembra una persona eccezionale. Anche sul modo di spiegare le cose, perché si capisce bene anche chi... Almeno è chiaro, cioè dice non è che fa i giri di parole politici, no? Infatti, no? Dice se le cose vanno bene, vanno male, poi uno può condividere. È una persona chiarissima che riesce a spiegare bene, che stimo moltissimo. Volevo chiedere proprio a riguardo di Calenda, se non vado errato e potrei sbagliarmi, ma mi correggerete voi eventualmente. I primi tempi del governo Renzi, Calenda era uno che doveva essere, se non sbaglio, deputato a togliere o a mettere la possibilità di scaricare gli scontrini fiscali anche delle persone che non hanno partita IVA, roba del genere. Siccome stamattina nei giornali si legge ancora di evasione fiscale espressa in miliardi di euro, io credo che effettivamente, come da popolo, insomma da persona ignorante, che l'unico sistema per ricavare l'evasione fiscale sia la possibilità di dare lo scontrino fiscale detraibile o comunque qualsiasi spesa, perché sì. Oscar è molto d'accordo su questa cosa, ovviamente sono ironico, sta un po' scuotendo la testa. No, però ecco, io la interrompo solo perché per ricordarla che Calenda non è deputato a questo, perché di queste cose, come di tutto ciò che riguarda il fisco, è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi qualunque sia l'opinione di Carlo Calenda, che da quando diventa ministro poi di fisco, come vede, o di banche, sia sia nel parlare, perché ovviamente sono competenze di altri dicasteri, no, non è quella la sua competenza, e quindi bisogna sperare che faccia bene il suo dall'Italia all'Ilva, ma non si può immaginare. Però la proposta dell'ascoltatore in sé era cioè detraibilità di tutto, non funziona così. Lo so che è molto semplice credere che sia la soluzione l'araba fenicia, come si suol dire, ma invece non è così. Cioè l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto, non è un'imposta che possiamo scalare a chi non dà valore aggiunto, da un input intermedio a un bene o un servizio finale. So che questa è una spiegazione tecnica che non vi convince, però quello che vi posso garantire è che quando vi dicono che in America si detrae tutto è una palla, non funziona così, non esiste il paese al mondo in cui si detrae tutto. Esistono dei paesi al mondo in cui si detraggono cose che non si detraggono da noi, ma quella generalizzata come forma di contrasto all'evasione è una cosa tanto semplice che tanto amate, ma del tutto irrealizzabile perché è sbagliata. C'è Stefano che ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Grazie innanzitutto per poter parlare. Grazie a lei, dica. Io mi facevo una domanda prima, e l'ho spiegata anche. Il perché lo Stato italiano dovrebbe dare la fiducia su una legge dove sa già che ci sono 4 emendamenti che devono essere cambiati, cioè nel senso che deve cambiare la legge. Non so se mi sono spiegato. No, diciamo è il contrario, la legge approvata 851 giorni fa, credo. La legge adesso, vista e rivista in passaggi ripassaggi voluta, Camera del Senato, voluta dalla maggioranza. Ecco. Ora ci sono degli emendamenti di persone della stessa maggioranza. Il problema è se il PD continua a emendarla è semplicemente che non la vuole, ma il problema è quello, non il contrario. Cioè Stefano, la questione è che la legge c'è, è voluta dal governo Renzi quando c'era Renzi. Adesso ci sono parlamentari dello stesso partito del PD che fanno degli emendamenti che peraltro non sono sostanziali, cioè non sono cambiamenti fondamentali. Allora il ministro Calenda dice va bene, se ci sono queste cose da cambiare le cambieremo, ma non si può bloccare una questione, anche di bloccare una legge, ecco. Altrimenti cioè avete la responsabilità di dire non vogliamo che venga approvata né ora né mai. Questo è, capisce, questo Stefano è il punto per cui Calenda sembrava anche un po' infastidito da questo blocco reiterato. Anche perché Stefano nel frattempo in Parlamento, in questa lettura, Camera e Senato hanno smontato tutto lo smontabile della legge della concorrenza, la maggioranza è stata, cioè, perché per essere chiari, hanno dato ragione ai notai, hanno limitato la possibilità del capitale per gli studi professionali degli avvocati, la liberalizzazione farmaci fascia C non c'è, la portabilità dei conti pensione, dei fondi pensione eccetera non c'è, quindi hanno già levato tutto il levabile dalla legge concorrenza, e a questo punto dice Calenda, se non la volete, ditelo. C'è Francesco da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Piccolo imprenditore, fornitore dell'Italia, rimasto incambiato in questa situazione. Io avrei voluto chiedere al ministro Calenda, che sembra così preciso, ma poi invece da politico racconta, ma non dice le cose precise. Come mai tutta questa fretta nel decretare? Il 2 maggio è stato emesso un decreto dal Ministero della Calenda, dell'Istruzione. Però scusi Francesco, ma la sua linea è disturbatissima. Allora facciamo così, siccome dobbiamo dare la linea al giornale radio, ma andiamo avanti fino alle 9.30. Lo richiamiamo e con la linea migliore almeno si capisce cosa dice. Esatto, appena rientriamo in onda alle 9 le diamo la parola. Abbia pazienza, 5 minuti, Francesco, state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Sebastiano Barisoni. Parliamo di flussi migratori, visto che ieri l'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro ha certificato, si fa per dire, una rivoluzione in atto e nemmeno tanto strisciante. Da quando la crisi è scoppiata nel 2008 al 2015 sono state 383.000 le persone che hanno abbandonato il nostro mezzogiorno per recarsi soprattutto nel nord del paese, 273.000, e anche nel centro, 110.000. Nel frattempo, e soprattutto a partire dal 2012, è aumentato in maniera esponenziale il numero di italiani che hanno lasciato il paese per andare a cercare lavoro all'estero. Fino a qui uno potrebbe vedere in questi numeri un dinamismo degli italiani, spesso criticati, soprattutto i giovani nel passato, perché cercavano un posto di lavoro troppo vicino a casa. In realtà non è solo così, c'è sicuramente una maggior disponibilità degli italiani a cercare lavoro laddove si crea e viene offerto, ma c'è un paese in complessiva crisi come capacità di attrarre forza lavoro. È un'incapacità che emerge da un altro dato ieri poco evidenziato. Nello stesso periodo 2008-2015 sono stati quasi 300.000 gli stranieri che hanno lasciato l'Italia, principalmente polacchi, ucraini, moldavi e rumeni, per tornare nei loro paesi di origine, perché le opportunità di lavoro offerte dal mercato italiano non risultavano più convenienti. E stiamo parlando di persone che avevano un regolare permesso di soggiorno, ma che una volta lavorando in Italia, ahimè, si sono comportate come gli italiani, sono andate laddove il lavoro c'era. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Sono le 9 e 5 minuti e siamo qui, andiamo avanti fino alle 9.30, ormai l'avete capito. Anche oggi, perché noi ogni giorno non sappiamo fino a quando andiamo avanti. No, andiamo avanti fino alle 9.30, dai. E allora, abbiamo recuperato l'ascoltatore, no, da Varese, non si sente niente, la linea è pessima e adesso lo recupereremo. Vedi, poi il governo litiga con Telecom e Telecom Italia le linee, è così, vedi. Calenda, non litigare con Telecom. No. Allora, c'è Lucia che ci chiama da Milano, buongiorno Lucia. Buongiorno signor Milan, io era da tanto che volevo chiamarla. Eccoci per qua. La sua rubrica la carta costa. Oh mamma mia, perché? Mi sembra, è da tanto che volevo dire, poco rispettosa per quei poveri ragazzi che scrivono, quelle povere ragazze che non sono celebrità. E poi tutti gli articoli che scrivono, che lei legge, non mi sembrano poi così abominevoli. Guardi Lucia, io le dirò che sono i primi articoli che leggo appena finisco la rassegna stampa, sono in genere i più interessanti. Ma signora, esatto, sono quelle, sono citazioni, una dose di ironia, paradossalmente ironiche, ma proprio per dire guarda la particolarità, no? Esatto. Pensi che un paio di volte me la sono autoassegnata scrivendo articoli per La Verità, ho detto oggi la carta costa va a me stesso, capisce? Però Lucia, vabbè, lei la trova irrispettosa. No, ma non è così, cioè nell'intento non è assolutamente così, però la ringrazio per l'osservazione. Allora Andrea da Rimini, buongiorno Andrea. Buongiorno, io volevo parlare dell'evasione fiscale. L'ascoltatore di prima che mi ha preceduto proponeva la detraibilità di qualsiasi genere di spesa. Io avrei un'altra soluzione. Sarebbe, secondo me, la soluzione migliore l'eliminazione del contante. Inserire obbligatoriamente a qualsiasi persona una carta di credito, un bancomat, con chiaramente delle agevolazioni da parte delle banche, perché diversamente guadagnerebbero poi solo loro. Le commissioni sono un po'... Invece bisogna far guadagnarselo lo Stato, come è giusto. No, voglio dire, se noi eliminiamo il contante, facciamo tutto con la carta, anche semplicemente tutto andare tracciato, a comprare una caramella da 15 centesimi, si va al tabacchi e si passa la carta. Naturalmente deve essere una manovra coattiva, vero? Obbligati tutti, perché chiaro. No, no, viva la libertà totale del contante. Ah, certo. No, no, perché la mia soluzione sarebbe questa. Perché detto comunque era molto ironico, Oscar, ovviamente, se hai capito, conosco Giannino, so che come la penso, insomma. Però con una semplice mossa andremo a eliminare la prostituzione, lo spaccio. Ma secondo lei? Davvero? Ma eliminiamo chi io li ammiro, questi della soluzione monocausale, non lei, ma questi che vi convincono che con una soluzione monocausale noi sconfiggiamo il male, il peccato, l'evasione, qualunque forma di economia illegale, basta abolire il contante. Ma vorrei mi capire, scusi, però, perché secondo la lei, secondo lei, le faccio una domanda banale, la prostituzione esisteva prima delle monete fiduciarie attuali nella storia dell'umanità o nasce con le monete fiduciarie? Se è vero che è il lavoro più, il mestiere più antico del mondo, no, per dire che questa storia dell'abolizione del contante come tocca sana ignora alcune cose fondamentali che nella storia dell'umanità c'erano ben prima della moneta fiduciaria, che è appunto il contante rispetto a quello. Cioè, perché lei dice eliminando il contante uno deve pagare qualsiasi cosa, quindi deve pagare anche la prestazione sessuale. E la pagheranno, cioè, fammi la spesa e portami, no, e guardi, portami da comunque mangiare. Per carità, siete anche qui, anche su questo, come l'ha detto prima di tutto, non in pochi a pensarla così. Magari se viviamo in un regime orwelliano ci sarà il decreto che abolisce il contante, a quel punto trovereste che tutto quello che miracolosamente dovrebbe avvenire non avverrà. Vediamo, vediamo, io non escludo nulla. C'è Giorgio da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Volevo solo commentare un'affermazione del ministro Calenda prima. Sì. Durante l'intervista relativa all'Italia, lui spera che sia venduta ad un operatore straniero. Sì, così ha detto, questo è un po' il suo auspicio. Esatto, no, dico, ma è stato, ma lo spera, che lui è il ministro, ma no, ma lo spera perché di italiani i soldi del governo italiano. Ma sì, ma scusi, il problema non è questo, ci fossero degli italiani non si era costretti a fare i default e le procedure di liquidazione, allora, quindi sa, i soci italiani precedenti non hanno trovato chi metteva i soldi. Non so se è chiaro, italiani, È chiarissimo, Giannino. Rimandate per favore i 100 secondi di Parisoni prima del telegiornale. Scappano dall'Italia addirittura gli stranieri. Ma, cioè, lei è stupito che un ministro italiano dica così? Ma insomma, cioè, l'alternativa è che se Asset Italia non interessano compagnie straniere, si va in liquidazione coatta, non so se è chiaro. L'alternativa è questa, perché non è una questione di tricolore. Il tricolore, sia pubblico che privato, ha perso soldi a miliardi là dentro. Il problema, come spiegato mille volte, deriva dalle caratteristiche della flotta, il fatto che dove si fanno i soldi all'Italia non c'è, non solo dai costi fissi delle dipendenti e così via, le scelte sbagliate all'origine del piano Fenice e dei capitani privati e così via. E questo è un dato di fatto, caro ascoltatore, non è che il ministro serve interessi stranieri, è che gli italiani tengono le mani in tasca, visto i soldi che sono stati bruciati a miliardi. Comunque, come vedete, tanti temi appassionano, come uno che ci ha colpito sui giornali di ieri, raccontava il giornale. Caro Oscar, ma sai che rischiano di scomparire i bagnini dalla Riviera Romagnola? Credo, adesso messa così ovviamente esagerata. Non ci credo minimamente. Ecco qua, adesso entriamo subito. È così. È come gli esami di maturità, questa è... Sì. No, tu allora sei l'amore. Vai. No, non mi farete cantare anche questo, vai, vi metto un po' di rock duro. Però comunque, allora, l'idea è, perché spariscono i bagnini? No, spariscono i bagnini perché, e questo è un dato di fatto, questo almeno raccontato dagli operatori del settore, ci sono, si fa fatica a trovare gli stagionali, quelli, non solo i bagnini, esatto, ma anche tutti gli baristi, operatori di turismo, ristorazioni turistiche, ristoratori, eccetera, eccetera. Cuochi. Perché? che cosa è successo? Qual era lo strumento attraverso cui si faceva la stagione, cioè i momenti di picco, non sì, quelli ordinari? Ma uno delle accuse, almeno questa ha detto per esempio Gianni Indino, presidente Confcommercio locale da ballo della provincia di Rimini, quando c'erano i voucher, certo non erano la panacea di tutti i mali, però qualche soluzione in più si trovava. Gianni Indino, buongiorno, lo salutiamo e grazie di essere qui con noi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Con noi c'è anche Graziano Urbinati, segretario generale della CGIL di Rimini, cioè il sindacato che aveva raccolto le firme democraticamente per un referendum per abolire i voucher e poi sono stati aboliti perché il governo insomma non voleva affrontare quella prova, quel referendario. Graziano Urbinati, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Indino, sono i voucher il problema o uno dei problemi, la mancanza dei voucher? Beh, diciamo che uno dei problemi sicuramente. Allora, partiamo dall'inizio. I ragazzi non hanno intenzione più di lavorare la domenica, lavorare i giorni festivi e naturalmente incrociano le braccia, diciamo per certi versi. Questo un po' è vero. Ma poi c'è da dire una cosa, il fenomeno si sta ridimensionando, man mano che ci avviciniamo al clou della stagione stiamo andando a occupare i posti, però il problema è come ha detto lei, cioè molta di queste persone che abitualmente lavorano nel turismo, magari alle quali offriamo un posto di lavoro per diciamo part time, 4 ore, 5 ore, e poi si sentono dire quella è da parte nostra il contributo economico in regola con tutto. Sa quali sono le risposte, visto che c'è il mio amico Urbinati della, cosa risponde? Della CGL? La gente ci risponde, no, aspetta un attimo, io prendo già l'indennità di disoccupazione. Aspetta, o mi fai, se quando c'erano i voucher il problema era risolto perché lavoravano con i voucher e di fatto conservavano anche l'indennità di disoccupazione. Mentre senza voucher ci chiedono di lavorare in nero. Cioè noi non possiamo fare allora se il lavoratore ti viene a chiedere di lavorare in nero capisce bene che noi abbiamo delle difficoltà e allora non possiamo assumere queste persone e metterle a regime. Questo è uno dei gravi problemi. Poi se avrò l'occasione dirò un'altra cosa in merito anche al sindacato e a quello che fa naturalmente per i lavoratori italiani. Vabbè, che, dica, del quale io ho un'idea tutta mia, non so se glielo dica subito a Urbinati, glielo dico subito, cioè sembra che, non sembra, secondo me, i sindacati sono ancorati al Novecento, sono passati più di 100 anni e loro continuano a gestire il sindacato come se fossimo agli albori di questa associazione. Non è più così, il lavoratore e il datore di lavoro lavorano fianco a fianco tutto il giorno, soprattutto nelle piccole imprese, siamo in qualche modo insieme noi coloro che decidono le sorti del proprio destino, lavoriamo fianco a fianco, abbiamo gli stessi problemi, le stesse difficoltà, gli stessi interessi se vogliamo. Sì, sì. Però chissà perché c'è qualcuno che pensa che il lavoratore e che il datore di lavoro sia ancora quello che in qualche modo vessa il lavoratore, lo soffoca, lo rende in qualche modo schiavo. Signori, è finita questa idea di rapporto tra lavoratore e imprenditore. Non è riproponibile nel 2017. Basta, non se ne può più. Vabbè. Questo sta creando veramente dei gravi disagi, dei gravi dispersi dal punto di vista nel mondo del lavoro. Vabbè, Oscar, qua siamo partiti dalla questione voucher, ma siamo entrati adesso Urbinati ci dirà della CGL. Cioè, visioni radicate. Visioni un po'. Sentiamo Urbinati. Urbinati, che dice lei? Guardi, devo dire che il dottor Indino è disinformato, bisogna che magari lo riporti un attimino alla realtà. Intanto va detto che coi voucher non si percepisce l'indennità di disoccupazione, quindi se paga un lavoratore coi voucher, come è successo in passato, purtroppo non può beneficiare dell'indennità della NASPI, dell'indennità di disoccupazione, perché quei tickets sostanzialmente diventano inutili, così come non percepisce la malattia, così come non percepisce la maternità e tanti altri. Io non ho detto quello, Urbinati. Un lavoratore adesso, se non mi interrompe. Sì, vabbè, ma sì, dai, facciamo. L'altra cosa che naturalmente il dottor Indino non conosce è che i voucher sono stati, con un emendamento, verranno reintrodotti. Quindi questo lamentarsi che non hanno più voucher dopo che le lobby. Qui sbaglia lei, però, perché lei sta dicendo che le reintroducono tale quale e non è vero. Lei sbaglia, diciamo lei, diciamo che sono reintrodotti con qualche modifica. No, no, no, no, no, no, no, non è così, non è così. Noi abbiamo il compito come giornalisti di dire che non è così. Se magari vuole glielo spiego e quindi lei me lo può spiegare, ma non sono i vecchi voucher, chi ascolta non cada in questa trappola. Esatto, sono, esatto. Buoni sono contratti di lavoro occasionali che possono essere utilizzati anziché presi in una tabaccheria all'INPS, che hanno un valore leggermente superiore, che non danno diritto alla malattia, che non danno diritto alle ferie, che non danno diritto alla possibilità dell'indennità di disoccupazione. E naturalmente lo possono utilizzare le imprese che hanno non sopra ai 5 lavoratori a tempo indeterminato, che naturalmente potrebbero averne 10 a tempo determinato. Quindi per la Riviera Romagnola, diciamo così, il tema si pone come lo era prima sostanzialmente. Detto questo, Rimini ha utilizzato 2 milioni di voucher a seconda provincia dopo Bolzano in rapporto alla popolazione. Ricordo anche che dietro un voucher, come noi siamo disposti a dimostrare, come tutte anche le interviste andate in televisione in questi mesi hanno dimostrato, dietro un voucher c'è sempre il lavoro nero. Il voucher ha funzionato da foglio di fico. L'altra domanda che faccio a tutti quanti è: come faceva la Riviera prima dei voucher, visto che i voucher non ci sono stati per tutta la vita, da qualche anno che i voucher sono uno strumento che sono stati utilizzati, in realtà dovrebbe essere un lavoro occasionale, non un lavoro che sostituisse quello normale. Come facevano questi imprenditori prima? Io, se vuole, magari posso spiegare anche come facevano e quali strumenti ci sono, quale possibilità di assumere i lavoratori e le lavoratrici sostanzialmente si può determinare. Posso parlare dello lavoro chiamata, posso parlare del part time, posso parlare del contratto a termine, posso parlare dei contratti weekend previsti nei contratti nazionali di lavoro, posso parlare dell'apprendistato e così via. Quindi di flessibilità ce n'è tantissima. Il problema è che è una flessibilità che costa un po' di più alle imprese, che serve ad organizzare. Vabbè, ho capito, ognuno la sua bandiera. Cari ascoltatori, chi vi racconta che l'apprendistato serve per i lavori occasionali sa che non è vero, e fa propaganda, cari ascoltatori, propaganda della peggior specie. Serve per la stagionalità, non per il lavoro occasionale. L'apprendistato, l'apprendistato che lei propone, no, può urlare quanto vuole, ma è un propagandista. Se mi dice sul tema voucher, lei parla dell'apprendistato, vuol dire che è propaganda, cioè la sigla della vecchia tribuna politica. Giannino, va bene, va bene. Io non ho detto prima che con i voucher si può ottenere l'indennità di disoccupazione. Non l'ho detto, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire a questo punto. Perché io ho solo detto che gente che ha diritto alla disoccupazione non vuole metterla in qualche modo a repentaglio e vorrebbe lavorare in nero. E perché questo? Perché ci sono degli orpelli, delle imposizioni amministrative, fiscali, che rendono quasi impossibile la vita sia al lavoratore che anche all'impresa. È questo che bisogna capire. Bisogna snellire il mondo del lavoro, bisogna dare la possibilità di muoversi in qualche altro modo. No, la questione è che Indino già gli strumenti che il nostro rappresentante della CGIL propone, alternativi ai voucher, sono strumenti, per stessa missione di Urbinati della CGIL, che hanno un costo maggiore per le imprese. Assolutamente sì. E quindi hanno finalità diverse. Conto l'ho fatto a Urbinati in un incontro pubblico. Ma l'ho detto anche a Urbinati. Esattamente quanto viene a costare in più a noi. Ma questo lo ha detto anche lo stesso Urbinati, cioè sono strumenti di flessibilità ma più costosi per le imprese rispetto ai voucher. Solo ma che adesso i voucher non ci sono più. Il part time non serve ai rapporti di picco, però vabbè. Il problema è che adesso il voucher non c'è più. Il part time si può utilizzare verticalmente, orizzontalmente, c'è il lavoro in somministrazione a chiamata, guardi, ce n'è tantissimo. Sono sarei andato volentieri al referendum, Giannino, sarei andato al referendum volentieri, avrei voluto vedere che cosa anche noi. Cioè, su questo devo dire la CGIL, questo anche loro l'hanno proposto, la CGIL su questo è vittima, certo, nel senso che ha democraticamente su questo non si discute, raccolto delle firme e il governo ha fatto questa scelta di sospensione. Comunque, come si vede, il confronto di idee è molto acceso. Sì, non siamo entrati sulla questione della visione del sindacato di sulla stagionalità, perché i ragazzi magari non si dice che non vogliono lavorare, non si trova pronto. Sì, no, le volevo dire questo. Allora, credo che lì ci siano, al di là di un po' di propaganda qui vera, che non c'è gente che vuole lavorare, il problema vero è che sostanzialmente con l'introduzione dei sistemi di flessibilità estrema il fatto di non poter beneficiare degli ammortizzatori, perché coi voucher o con lavori chiamata spesso non si raggiungono i requisiti per avere quei benefici, e i benefici fra l'altro sono stati ridotti dal governo Renzi con la riforma degli ammortizzatori sociali. Naturalmente un ragazzo o un giovane che gli si chiede di fare il barista, il cameriere a Rimini, se trova un'occasione che non è a Rimini, che potrebbe essere, come sta accadendo qui sul territorio, Parigi, Londra, piuttosto che un altro stato estero, va a fare la stagione da un'altra parte. Sì. Oppure non lavora. E aggiungere una cosa, come mi è stato detto da un preside di un istituto professionale alberghiero, i ragazzi a Rimini sono bravi finché non si diplomano, per molti commercianti, albergatori e ristoratori. Quando si diplomano, che devono essere assunti, diventano tutti degli incapaci. Guarda caso. Cioè, gli imprenditori dell'accoglienza, della ristorazione, sono i vostri peggiori nemici. Li descrivete in una maniera... Chi che attribuisce ai ragazzi l'attestato di incapace? Vorrei capire, voi altri li attribuite. Devo dire che insomma si prevede anni 50, Peppone allo stato puro, una roba però incredibile. Si prevede però una bella estate calda, insomma. Sì, a Endino direi che naturalmente la CGL è al 900, gli imprenditori, se ragionano come ho sentito, sono all'800, sa che in Riviera ci sono state anche forme di schiavismo, si vendono camere a 15 euro, pensione completa. Lei immagini come può lavorare dentro un lavoratore, a quali condizioni per poter garantire questi prezzi. Ma a me sembra, allora, a parte dei casi sporadici che possono anche essere accaduti, generalizzare così mi sembra eccessivo. Per il radio parlare in 50 non si capisce niente. Un attimo, Urbinati, Indino risponda, perché tanto se vi parlate insieme non si capisce niente. No, stavo appunto dicendo che illustrare una situazione di questo tipo della nostra Riviera è veramente fuorviante per essere educato, ma a me sembra che ci sia qui della cattiveria politica nei confronti, ancora una volta, noi siamo nell'Ottocento, ma le parole nostre sono diverse da quelle del sindacato, cioè vengono attribuite, io ho chiesto, e vengono attribuite a noi, dicevo. Chi è che attribuisce a chi attribuisce queste accuse? Cioè, i ragazzi usciti dalla scuola diventano ignoranti. Perché? A un sistema che tratta i ragazzi sulla Riviera in questa maniera, di cui fate parte di quel sistema. Lei rappresenta un'associazione, si prenda le sue responsabilità. Io penso che i nostri ascoltatori le posizioni sono spaccate. Però Indino, Urbinati, le posizioni si sono capite, anche perché ma è vero, anche gli imprenditori descritti come schiavisti. La risposta è: siete al 700, siete al 600. Ci rinfacciamo secoli all'indietro. Oddio, va bene. Man mano che andiamo avanti. Però no, interessante. Capisco, il dibattito la Romagna c'è, è così, è molta passione. Sì, molta passione. Certo, i bagnini, vedremo. Vedremo. No, ringraziamo Gianni Indino, presidente Confcommercio e locale da ballo di provincia di Rimini, e Graziano Urbinati, segretario generale della CGL Rimini. Il problema evidentemente c'è, forse anche un po' più atavico. Vecchie ruggini. Vive di passioni e contrapposizioni un po' antiche, per così dire. Vabbè, dai, c'è Gianni che ci chiama Gianni, da Brescia. Gianni da Brescia. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo, mi ricollego a quello che diceva il signore prima di togliere definitivamente il contante. Io invece sono del parere assolutamente opposto, vi spiego subito perché. Lavoro in un'azienda sul lago di Garda che vende gadget di alto prezzo. Ieri è arrivato un turista russo, ha speso più di 30.000 euro, abbiamo dovuto fare 20 scontrini. Ah, però! 20 scontrini perché più di 3.000 euro non si possono prendere, no? Eh già, certo. Cioè, poi dopo alla fine si trovano i trucchi per incassarli lo stesso. Ma sì, non è un'assurdità quella di mettere un limite al contante? Se uno ha evaso e c'ha i contanti, ma li spendesse, che va a girare l'economia? Lo so, Gianni, però la premessa, se uno ha evaso e ha i contanti, non è una premessa che porta molta acqua al suo mulino. Però sai, l'evasione è uno spacciatore, l'evasione è un reato personale di euro. L'economia che gira è di tutti. Il senso è questo: se uno ha già, cioè, bisognerebbe non fare evadere la gente. Sì. Ma se uno ha già evaso i soldi, ce li ha, cosa facciamo? Glieli facciamo lasciare chiusi in cassetta di sicurezza a vita? Dice, non li spendi più. Cioè, no, però capisce, il suo discorso, secondo me, Oscar lo appoggiava fino a quando ha tirato fuori questa cosa. Ormai ha evaso. Ma anche oggi la vittoria dello Stato. Lo Stato anche oggi dimostra, cari ascoltatori, come ci ha messo sotto col cervello, perché siamo qui a discutere tra noi come sempre. Se l'evasore sei tu, l'evasore sei tu, come facciamo ad annullare il più possibile la nostra libertà perché lo Stato ci guardi negli occhi e capisca automaticamente online che non c'è. Ecco, invece dovremmo ragionare su, ma anche oggi, ma quanti soldi brucia lo Stato che ci prende le nostre tasche, che non servirebbero meglio forse a chi ha meno? Vedete il bilancio integrazionista presentato ieri, i bonus sono andati a chi ha redditi medi ed elevati e non agli incapienti, oppure ai nostri figli che sono quelli che vedono il meno possibile del welfare e così via. Ecco, noi dovremmo discutere di questo, invece discutiamo come fare a essere più controllabili. Però se quel russo ha lasciato 30.000 euro in azienda ieri, credo che qualcuno sia rimasto soddisfatto, sì, per l'incasso bene della giornata. Bene. Va bene. Allora, dai, ci fermiamo qui. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi. E vedo che ti fanno vedere altre pastarelle. Sì, c'è Chiara Compagnoni che ha portato i pasticcini, sempre quelli che insomma. Così. E c'è Carmelo Lauricella in regia, c'è Filippo Oreggi in regia. Per oggi ci siamo ancora. Domani anche, dai, ciao.